qualche ragione per metterci in fila ad uno, può darmi qualche risposta o farmi dei cenni con la mano. Ci sono tante parole.